La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici, buon sabato e buon cinema da Franco D'Assisti. Questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema settimanale di Radio 24. Come ogni sabato sera, a raccontarvi e a consigliarvi quello che c'è da vedere in sala nelle prossime ore, questa sera, domani, nei prossimi giorni. Settimana molto densa, settimana che segna l'arrivo in sala di un altro dei colossi, almeno per quanto riguarda il numero delle nomination, in previsione Oscar del 22 febbraio. Stiamo parlando di Birdman, ben 9 candidature alle statuette per il film che ha aperto la scorsa mostra del cinema di Venezia. Rulli di tamburi accompagnano la vita e la storia di Regan Thompson, il protagonista di Birdman, interpretato da Michael Keaton per la regia di Alejandro González Iñárritu. E allora, la storia di un attore reso famoso dal ruolo di Birdman, di un uomo uccello piumato, eroe, anzi supereroe, di tanti blockbuster americani, che però cerca una sua patente di plausibilità artistica, una sorta di grado sulle spalle, attraverso la messa in scena di un testo di Raymond Carver a Broadway, con tutta la critica spianata col fucile puntato per stroncarlo e per dirgli che in fondo tu sei buono solamente per i blockbuster piumati, e una voglia interiore che è quella invece di affermarsi e di affrancarsi da quel personaggio che, tra l'altro, come una sorta di scimmia, gli rimane sempre lì nel suo immaginario, alle sue spalle, a fare la voce interiore di quello che lui dovrebbe fare. Le cose vanno in modo tale che sul set arriverà un attore di quelli molto molto dotati, interpretato da Edward Norton, e lì forse sarà lo specchio in cui rivedersi e in cui provare a tirare fuori il meglio di se stesso. Se basterà, chiaramente lo scoprirete durante il film. Posso sedere? Sì, certo, siediti. Non è idea. Sì. E allora adesso ridimmela come se volessi dire fanculo. Giusto. Prova, buttamela addosso. Sì. Dai, facciamolo. Andiamo, facciamo. Ecco, come se mi scopassi, okay. Capisci? Dammela, ecco, avanti, sì, non dire che lo fai. Tu non chiedi la persona sbagliata, io neanche lo conoscevo quel tizio, ok? Veniamo al punto. Veniamo al punto? Esatto, veniamo al punto. Cosa vuoi dire? Sputa il rosso. Oh. Cos'è che oh. vuoi dire? Cosa vuoi dire? Che l'amore è qualcosa di assoluto? Sì! Sì! Il genere di amore di cui sto parlando è qualcosa di assoluto! Sto parlando di un amore in cui non provi a... Non provi ad ammazzare una persona. Sì, bene. Non lo so, che ne pensi, boss? Okay. Ti va di fare questa cosa insieme? E allora, questo è uno dei momenti più intensi di un film molto intenso, girato tutto con una sorta di piano sequenza, almeno sotto il profilo dello spettatore. Poi si capisce benissimo che è girato in molte tranche, però con pezzi tutti consecutivi, appunto, senza tagli, senza stacchi, senza controcampi, di anche 10-11 minuti, che hanno messo a dura prova un cast nel quale, appunto, abbiamo detto, c'è Michael Keaton, c'è Edward Norton, ma ci sono altri attori tutti in grande forma, come Emma Stone, che recita il ruolo della figlia di Michael Keaton, come Naomi Watts, come Zach Galifianakis, il barbuto piccoletto della saga della Notte da Leoni, nei panni dell'avvocato manager di Michael Keaton. È una riflessione questa sul ruolo dell'attore, sul ruolo anche di chi cerca se stesso, sul ruolo che la società ti affibbia e che non riesce a scalzare, perché non riesce ad andare oltre il pregiudizio. E forse anche un film sull'accettazione di quello che si è, per quello che si è, forse anche con una sorta di disperato ritorno al senso della lotta, al senso di una lotta che in questo caso è assolutamente inutile, perché infine ti hanno bollato e quello rimarrai. Forza, camminiamo. Dove andiamo? A prendere un caffè. Ti ho mancato di rispetto, per caso? Non ancora. Senti, questo spettacolo è molto delicato per me. Sul serio? Certo, il pubblico mi conosce. Stronzate. E... No. Stronzate, il pubblico non conosce te o il tuo lavoro, amico. Conosce il tizio vestito da uccello che va a raccontare cazzate vomitevoli a Letterman Show. Beh, scusa se sono popolare, Mike. Popolare? Chi se ne frega, popolare? La popolarità è la cuginetta zoccola del prestigio. Amico mio, Eh beh, anche questa è una definizione molto interessante, quella che dà Edward Norton della popolarità. È un altro dei grandi temi che muovono Birdman, l'essere apprezzati o essere amati, come le due cose non coincidano, soprattutto per quanto riguarda chi sta molto vicino alla figura del protagonista. Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Eravamo tutti a Venezia con questo film d'apertura che ci ha stregato per sceneggiatura, per messa in scena. Certo, è un film che non sviluppa una trama, ma sviluppa soprattutto una sorta di sentimento interiore del protagonista principale, che è un grandissimo Michael Keaton e che è quanto di più vicino al Birdman del film. Anche lui, partito e reso famoso dalla saga di Batman, ricorderete, tanti anni fa, e poi forse non valutato mai per quello che è stato davvero il suo talento attoriale, che qui si rivela in pieno. In questo caso è divertente già questo gioco dell'immaginario che fa Iñárritu, che non lamentiamoci che non ha una trama, perché forse questo è il suo film più lineare, quindi in questo senso si può tranquillamente sopportare, ma in questo caso non c'è solo Keaton che fa Batman, ma c'è anche Edward Norton che era risorto facendo Hulk dopo un inizio da attore di cinema d'autore straordinario, e lo stesso Emma Stone, diciamo, non è una supereroina ma frequenta molto da vicino l'uomo ragno, e già questo voler raccontare questa storia, questo genocidio culturale di cui lui parla, di cui accusa i blockbuster, di cui accusa le star, con queste facce è già il simbolo, il segno di quale coraggio abbia Birdman dentro. Per me è, senza se e senza ma, un capolavoro, ma è anche una lezione di cinema. Hai fatto sentire delle clip meravigliose, quella in cui loro recitano e in cui Edward Norton tira fuori a Michael Keaton la vera essenza della recitazione, è da far vedere secondo me in tutte le accademie teatrali. E lo stesso vale per quel discorso che fanno subito dopo la prima anteprima andata male. Il punto è che qui Iñárritu per una volta si spoglia, secondo me, di quella voglia anche un po' radical chic di dimostrare quanto è bravo, e si diverte con il cinema, si diverte ad essere se stesso, quindi se la prende con Facebook, se la prende con Twitter, prende la critica e la appallottola, insomma ci fa un pizzico, diciamolo onestamente, dimostra come i registi non abbiano in grande considerazione chi vede i loro film o chi vede i loro spettacoli, e quindi non si ferma davanti a nulla, e allo stesso tempo ha anche il piacere di contraddirsi, perché le scene in cui Birdman arriva dimostrano che lui, che odia i blockbuster sotto sotto, non solo li sa fare ma gli piacciono, ma ci sono anche quelli nel suo immaginario, nella sua forza. È veramente cinema totale, è un grande regista con una grande capacità visiva e visionaria, e con una grande capacità di narrare, di raccontare quello che c'è dentro le persone, che non ha paura di scendere dal piedistallo e allo stesso tempo di mettercisi più in alto di tutti, di giudicare tutto e tutti. È un po' un modo wellsiano, diciamo, di fare cinema, ed è un modo secondo me coraggioso, ambiziosissimo e straordinariamente riuscito. Io devo dire, mi incatenerò agli Academy se non dovessero dare l'Oscar a Michael Keaton. È la mia chance finalmente di fare qualcosa che conti davvero. Che conti davvero per chi? Tu ce l'avevi una carriera, papà, prima di quel terzo fumettone di film, prima che la gente si dimenticasse chi c'era sotto quel costume da uccello. Tu odi i blogger, ti fa schifo Twitter, non sei neanche su Facebook, è pazzesco, sei tu quello che non esiste. Tu stai facendo questo perché hai una paura dannata, come tutti quanti noi, di non contare niente. E la sai una cosa? Hai ragione, non conti. Non è così importante, ok? Tu non sei importante, facci l'abitudine. La rosa purpurea. Ed eccoci ancora qua, la rosa purpurea, come promesso, a parlare del ritorno dei fratelli Wachowski, che hanno realizzato, ma forse sarebbe meglio dire hanno commesso, un altro film, ovvero Jupiter, il destino dell'universo. Andiamo un po' dentro la storia di questo film, la storia di una ragazza, figlia di immigrati russi, lavoro umile per vivere nella Chicago di un presente molto vicino al nostro, ma un giorno scopre questa ragazza di essere un po' al centro di una serie di interessi di una famiglia di nobili che arrivano da oltre lo spazio e che di fatto hanno delle risposte che riguardano anche la vita sulla Terra. Insomma, fantascienza distopica, un mondo reale che si scopre essere molto diverso da quello che è. Chiaramente in mezzo anche la storia d'amore con una sorta di mercenario, una sorta di mezzo licantropo che viene assoldato per recuperare questa ragazza, ma con la quale inevitabilmente nascerà l'amore. Stinger ha detto che hai aggredito un titolato una volta. Stinger parla un po' troppo. Ma è vero? Ha importanza? Tutti facciamo cose che non sappiamo spiegare. Dissero che era nei miei geni. Un difetto di ingegneria genetica. Questo spiegherebbe molte cose di me. Come il fatto di avere un'irrefrenabile capacità di innamorarmi di chi non si innamora di me. Allora, parliamo un po' di questo film. Io prima ho detto un altro film commesso, nel senso che mi chiedo dove siano finiti i fratelli Wachowski, se era un bluff, se avevamo scherzato all'epoca di Matrix, che piacesse o non piacesse regalava una sorta di filosofia al loro cinema, che adesso invece sembra quasi la brutta copia di se stessa. I nostri vengono da Speed Racer, poi da Cloud Atlas, uno dei film più incomprensibili della storia del cinema, e adesso con questo Jupiter, che mi sembra voler rubacchiare qua e là ai target di Hunger Games, ai target di Twilight, ai target di Up and Down. Insomma, se hai più di 15 anni il film comincia a starti un pochino stretto. Detto questo, chiaramente si parla di un film realizzato con effetti visivi e sonori allo stato dell'arte, niente da fare e da dire sotto il profilo puramente visivo, però effettivamente in termini proprio di quanto regala e quanto impegna e quanto assorbe dell'emotività dello spettatore, mi sembra che abbiamo fatto parecchi passi indietro. Chissà se Boris Sollazzo è d'accordo con me. Boris? Secondo me sei stato troppo buono, devo dire. Io ho l'impressione che i Wachowski facciano di tutto per far rivalutare le proprie opere precedenti, nel senso che vedendo Jupiter in effetti uno dice forse Cloud Atlas non era così male. Probabilmente è questo la loro volontà, il loro desiderio. Certo, rimane incomprensibile come pur un film invecchiato come Matrix possa poi aver prodotto due registi che hanno così tanti mezzi e così tanta confusione nel raccontare le loro storie. E non è che abbiano dimenticato come si gira una scena o come utilizzare gli effetti speciali, perché anche qua si vedono benissimo. Però veramente sembrano aver perso l'alfabetizzazione base della sceneggiatura, di un'occhiata che prima avevano obliqua, con cui sapevano raccontare anche una certa filosofia, come dicevi tu. Qui in fondo che cosa fanno? Prendono la fiaba di Cenerentola, la fanno partire dalla Russia, la fanno arrivare fino a Giove, nel senso del nome Mila Kunis, e fino a una galassia lontana e tutto finisce poi, appunto, senza che diciamo come, ma come uno può immaginare, e nel frattempo si è annoiato per 2 ore e 7 minuti, tranne forse per i momenti in cui Channing Tatum si produce in acrobazie, però neanche tanto indimenticabili. Tra l'altro forse c'è in Tatum l'unica l'unica verità che dice nel film, è quando dice a Mila Kunis: io sono più vicino a un cane che a te, e in effetti è abbastanza cane come attore, ed è un peccato perché lui è uno che ha un grande talento, l'abbiamo visto con Soderbergh, ma che davvero in mano ai registi sbagliati spesso fa cose da mettersi le mani nei capelli. Tra l'altro in quel momento Boris scoppia la risata da comicità involontaria in sala, perché quando la risposta di Mila Kunis è "io adoro i cani" è veramente lì, cioè io ho visto il boato, no? Ho sentito il boato in sala, e la cosa triste è che Ecco, è una risata di comicità involontaria, ma nella sceneggiatura voleva essere ironia vera. Voleva essere ironia vera, tanto che hanno bisogno di sottolinearla, secondo me hanno un momento di consapevolezza, perché hanno bisogno di sottolinearla quando esce lui dalla stanza e lei fa una faccia come per dire: ah, che brutta battuta che ho fatto. E il problema è proprio quello, loro hanno perso quella brillantezza. Ripeto, Matrix a vederlo oggi è molto invecchiato, è un film che, come Trainspotting, è figlio del periodo in cui è stato fatto, ma è comunque un gran film, ha comunque un'idea dietro molto forte. Quello che poi abbiamo visto, non tanto in Speed Racer, che ancora aveva qualche brio, qualche rimasuglio di quella felicità narrativa, ma quello che abbiamo visto poi in Close Atlas, adesso in Jupiter, davvero due bambini a cui è stato dato un giocattolo straordinario con tutti i mezzi possibili, che stanno sprecando tutto questo talento e tutte queste possibilità. So molto bene chi e cosa sei, e so che questo non sai dirlo. Lo dirò io per te. Hai mentito alla comunità degli stati perché sei un cacciatore che da tutta una vita cerca una cosa solamente. Sei sopravvissuto a lungo senza averla, e il fatto di averla forse trovata ti spaventa a morte, ma non tanto quanto il fatto che lei ora è lì, sepolta da strati di uragani. E se vuoi rivederla, devi seguire il mio consiglio. Ora vai laggiù e comincia a scavare. Questo è Jupiter, il destino dell'universo. Mi permette di aprire una parentesi sul box office per dire che la situazione alla scorsa settimana, lo scorso weekend, vedeva in Italia al primo posto Notte al Museo 3, che è partito molto forte con più di 2 milioni di euro nel primo weekend, ma è partito molto forte anche Italiano Medio di Maccio Capatonda al secondo posto con quasi 2 milioni. Ed ecco, nel primo giorno di programmazione di questa settimana, ovvero giovedì, Italiano Medio era ancora il film in testa, stava incassando di più di Jupiter. Questo per dire che la partenza non è stata clamorosa, anche se Jupiter è chiaramente un film da weekend, quindi i conti li faremo ovviamente lunedì mattina. È il momento invece di giocare insieme, e a proposito di cinema di grande impatto visivo, questa è la prima clip del nostro film misterioso di oggi. Donna, le tue parole sono aria per me! Ehi! Porco cacchio! Se il tuo unico obiettivo è uccidere Ronan, non credo che questo sia il modo migliore per farlo. Se avete già indovinato di che film si tratta, qualche indizio ve l'ho già dato. La Rosa Purpurea, @radio24.it, è l'indirizzo a cui scrivere con il vostro nome, cognome e indirizzo il titolo di questo film, provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana, mentre più tardi vi faremo ascoltare un'altra clip. E allora, parliamo di animazione, di family, animazione che è ormai diventato, come diciamo spesso, una sorta di genere presente tutto l'anno, un genere per tutte le stagioni. Stiamo parlando stavolta di un film che si intitola Mune, o Mune, dipende da come lo pronunciate, Il Guardiano della Luna. È un film che racconta una sorta di favola, cosa succederebbe se il sole non tornasse a splendere ogni mattina. Secondo gli antichi testi, in principio, non esisteva la luce nel nostro mondo. Ci fu bisogno di un uomo super forte che avvicinasse a noi il sole. Il guardiano del sole regola le stagioni, si prende cura della terra e così via. E la luna fu il suo primo guardiano a portarla qui dal mondo dei sogni. In realtà, fu lui a portarci anche i sogni. Questo è un momento proprio di spiegazione quasi della storia del film, quella dei guardiani della luna e dei guardiani del sole che devono designare i loro successori, ma chiaramente succede qualcosa per cui le cose non vanno secondo l'ordine naturale. È una esperienza visiva interessante quella di Mune, Boris, perché è come se a un certo punto i creatori DreamWorks incontrassero la poetica di Miyazaki. È incredibile, tra l'altro lo fanno abbastanza a sorpresa. La fortuna è forse andarlo a vedere sapendo il meno possibile, perché inizia Mune come un'avventura delle tante che abbiamo visto nell'animazione moderna, che è fatta di è un po' come il cinema degli anni 50, fatto di grandi storie, anche grandi regie, bellissime rese, però anche un'attenzione molto forte alla quadratura del cerchio. Mion invece riesce ad unire, a sintetizzare in sé le due anime dell'animazione, scusate il gioco di parola, come dici tu, cioè DreamWorks, quindi una solidità tecnica, una forza visiva e anche una semplicità di storia, con Miyazaki, cioè quindi con un uso della metafora, della poetica, della forza narrativa molto forte. E a un certo punto, senza che tu te ne accorgi, la storia, che è una storia inevitabilmente esile, diciamo questo furto di cui poi vedrete, ecco, non voglio anticiparvi altro, però c'è un furto alla base, questa storia molto esile lascia spazio a un'avventura estetica che però non è fine a se stessa, ed è davvero una bellissima avventura estetica, perché è un'animazione particolare, sono personaggi particolari, sono proprio linee che non siamo abituati a vedere, quindi devo dire è bello, ma soprattutto sorprendente, perché è difficile dire qualcosa di nuovo nell'animazione attuale, e Mion secondo me ci riesce. E allora, promosso Mion, il Guardiano della Luna, davvero una proposta family, perché appunto, come abbiamo detto, anche sotto il profilo visivo e pittorico quasi, riesce ad accontentare un pubblico appassionato di animazione, ma anche di età adulta. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Abbiamo annunciato che ci saremmo occupati di The Iceman, ed è il film di cui vogliamo parlarvi in apertura di questa terza parte. Un film che arriva dopo qualche tempo, insomma, diciamo così, dopo un po' di tempo dalla sua prima visione italiana, che fu alla Mostra del Cinema di Venezia di un paio di anni fa. La storia di un serial killer, la storia di Richard Kulinski, che ha il volto di Michael Shannon, sempre molto intenso, uno degli attori più interessanti, insomma, degli ultimi anni hollywoodiani, un killer della mafia che però ha una vita praticamente normale in un quartiere normale. Allora, che cosa fai per vivere? Le copie dei cartoni per la Disney. Davvero? Qual è il tuo preferito? Cenerentola. Sul serio? Sì. Che cos'è? È una specie di diavolo, non lo so. L'ho fatto per sembrare più duro, credo. Come mai? Ti dà fastidio? Niente affatto. È una sorta di vita sotto un'identità segreta, se vogliamo, celata, quella dello spietato serial killer Iceman. Boris, dicevamo, un paio di stagioni per trovare finalmente la via della sala. Per questo Iceman, sicuramente la proposta d'azione più interessante, più avvincente di questo fine settimana. Ti chiedo, basta Michael Shannon nel ruolo del protagonista, ma ricordiamo anche un cast di, non voglio definirle vecchie glorie, ma Ray Liotta e Winona Ryder mi fanno venire sempre in mente un po' gli anni 90, e poi James Franco, Chris Evans, insomma, le figure non mancano in questo film, che però ruota attorno alla figura di Michael Shannon. Sì, no, è veramente incentrato, imperniato nella figura di Michael Shannon. Quando tu mi dici basta Michael Shannon, tutto è Michael Shannon in questo film, quindi basta in tutti i sensi, basta anche fisicamente al film Michael Shannon, che tra l'altro con il mercato italiano non è fortunatissimo, perché i suoi film arrivano solitamente abbastanza tardi. Iceman è un film interessante, anche se il regista secondo me si appoggia sul grandissimo talento del suo protagonista e prende un soggetto interessante, cioè quello di un killer della mafia che sostanzialmente affronta il suo lavoro per 40 anni come se fosse un lavoro impiegatizio, senza nessuna esaltazione per il suo ruolo, quindi nessun superomismo di alcun tipo, e senza però nessuno scrupolo ulteriore a quello di mettere dei timbri, ecco. E questo colpisce molto, perché il regista in quel senso è bravo a tenere le redini della narrazione abbastanza tirate da rendere credibile un personaggio che poi forse solo in mano a Michael Shannon e pochi altri avrebbe potuto prendere forma. Senza Michael Shannon forse questo film non l'avrebbero dovuto neanche fare. Così si poggia sulle sue spalle e lui riesce a dargli una credibilità, anche grazie a quella faccia sofferente, ma anche ordinaria, quella capacità di portare su di sé tutto il peso del mondo e far finta che sia al massimo una 24 ore. È un film interessante, diciamo, abbiamo chiamato proposta d'azione perché sì, è vero, si spara, però la verità è che forse sono i silenzi, gli immobilismi, le fragilità di questo killer a essere più interessanti degli omicidi veri e propri. Boris, tra l'altro la figura del killer dormiente o che aveva cercato di cambiare vita ma viene tirato dentro per i piedi di nuovo nella sua professione, oppure in questo caso dall'identità celata, insomma, sta diventato quasi un genere in questi ultimi tempi. Basti pensare al recente ritorno di Keanu Reeves, per esempio, in un ruolo di questo tipo. Sono d'accordo, qui se vogliamo è un po' meno moralista, nel senso che di solito il killer dormiente viene utilizzato come chiave per dire è successo qualcosa di così grave che persino lui vuole giustizia. Qui invece è il contrario, lui vuole solo guadagnare, vuole solo portare a casa la sua onesta o disonesta, tra virgolette, pagnotta, e quindi forse in questo senso è più interessante. Credo che questo abbia a che fare, faccio del psicologismo spicciolo, con le nostre paure più recondite, cioè viviamo in un mondo in cui a un certo punto si svegliano degli assassini seriali, degli assassini feroci e uccidono tutti. Viene facile pensare a Charlie Hebdo, dove due ragazzi francesi uccidono altri 12 francesi. Credo che questo faccia parte delle nostre fobie, che chiaramente al cinema prendono sempre delle versioni più eleganti e anche più rassicuranti, perché insomma ci illudiamo sempre che uno come Michael Shannon noi capiremmo che è un killer. La verità è che invece è talmente bravo che non lo capiremmo mai e non lo farebbero nemmeno le persone più vicine a lui. Ehi, che cazzo pensi di fare? No, mi volete fregare, no. Andiamo, volete fare furbi con me, pensate che sono fesso. Stai calmo, paga quello che gli devi. No, io non ti pagherò proprio niente. Metti i soldi sul tavolo. Metti i soldi sul tavolo. Ecco, bravo. Prendi i tuoi soldi. Vattene adesso. Vai al laboratorio a masturbarti con i porno. Io vado a scoparmi una donna vera. E questo era The Iceman, un'altra delle proposte cinematografiche di questo fine settimana. Noi siamo arrivati alla seconda clip del film misterioso di oggi. Ehi, tartaruga ninja, non punzecchiarmi. Come ti chiami? Mi chiamo Peter Quill, ok? Ciccio, calmati. Muoviti! Perché? Ronan forse vuole interrogarti. Ehi, senti, forse mi conosci con un altro nome. Ma che bontà la nostra redazione, che ci ha preparato delle clip con i nomi e cognomi, insomma, più di così, cosa dobbiamo fare? Svelarvi anche il titolo? No, quello fatelo voi alla Rosa Purpurea, @radio24.it, con il vostro nome, cognome e indirizzo, titolo del film, per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questa pellicola che sveleremo la prossima settimana. Allora, parliamo invece di commedia francese. Un altro dei film che arrivano in sala in questo fine settimana è una commedia che ha avuto un successo clamoroso in Francia. Molto spesso ormai le commedie francesi, quelle più sboccate o quelle un po' più raffinate che arrivano in Italia, sono veramente tante, arrivano con questa nomea, no? Grande successo, 5 milioni di spettatori, cioè, chiaramente facciamo le debite proporzioni, la Francia è un paese che va al cinema molte più volte di noi, gli ingressi in sala in un anno sono molti di più. Ciò non toglie che evidentemente alcuni prodotti commerciali riescono ad avere un grande impatto sul pubblico, e molto spesso questo basta per arrivare anche nei mercati italiani. È il caso di Non sposate le mie figlie, questo è il titolo di questo film firmato Philippe de Chauveron, con Christian Clavier nel ruolo principale, un cast molto corale. Sentiamo questa clip. Era mia madre. Ho sentito. Vuole riunire tutta la famiglia per Natale. Sono invitato? Non ancora. L'anno prossimo, se va bene. Un cinese, un ebreo, un arabo passi, ma un nero no. Nella tua famiglia tutti tranne gli africani. Che sciocco. Neanch'io ho incontrato ancora la tua famiglia. Non ci provare. Da parte mia non ci sono problemi. Abitano lontano, altrimenti figurati. I miei sono molto tolleranti. Da noi in Africa la porta è aperta a tutti. Ancora una volta nel plot troviamo semi che sono stati già piantati nel cinema, insomma la cosa della famiglia che si riunisce a Natale, della cena di Natale, del pranzo di Natale, che diventano motivo per far deflagrare le varie idiosincrasie reciproche, perché è il momento in cui molti si trovano quasi per forza di fronte a persone che magari, nonostante il grado di parentela, non frequenterebbero neanche. Insomma, tutto questo nel cinema c'è sempre stato, molto nella commedia italiana, e in questo caso però questo seme si mischia con un altro seme, se vogliamo, che è quello che nasce con Indovina chi viene a cena, cioè quello della diversità culturale, etnica, religiosa, che fa da elemento spiazzante. Risate sicuramente assicurate, Boris, per un film che però mi sembra di poter dire non esce dai criteri di una commedia popolare francese ben fatta, ma che insomma non mi sembra ci possa far gridare al miracolo, all'aver cambiato il senso della commedia. L'avrei fatto molto di più, per esempio, con la Gemma Boveri della settimana scorsa. Beh, Gemma Boveri secondo me esce dai canoni della commedia per diventare un melodramma anche di straordinario impatto. Sicuramente, come dici tu, come Mogliere in bicicletta, ha un altro spessore. Devo dire che però Non sposate le mie figlie, io l'ho trovato gradevole, è quella commedia un po' alla Quasi amici, se vogliamo, dove cose serie vengono raccontate con uno spirito di leggerezza e anche di irriverenza interessante. Io ho trovato molto interessante la prima parte di Non sposate le mie figlie, cioè quei primi 20 minuti in cui c'è, diciamo, l'attacco a un certo modo di pensare e di vivere francese, in particolare parigino, che, ecco, tornando a Charlie Hebdo, un po' spiazza, pensandoci adesso, a quelle battute, no, su Parigi, su un certo tipo di intolleranza, e anzi fa piacere che ci sia stato il coraggio comunque di volerle raccontare lo stesso. E poi anche il fatto che qui Indovina chi viene a cena, che era in fondo uno stereotipo al contrario, raccontato in maniera forse troppo seria, qui viene in qualche modo destrutturato, e quindi il cinese, l'arabo e l'ebreo vanno bene. Poi finalmente arriva il cristiano, che era il desiderio grande di questi due coniugi vecchi che hanno quattro figlie, e però è nero e si devono, come dire, mettere in conto anche questo, devono mettere in conto anche questa cosa nella loro finta tolleranza o vera intolleranza. Chiaro che non stiamo parlando di chissà quale capolavoro, né stiamo parlando di un modo incredibilmente irriverente, incredibilmente originale di raccontare quella vicenda e quel modo di pensare. Però è anche vero che in una commedia così popolare noi non siamo poi così abituati a sentir parlare di certi temi, e sentirne parlare con questa levità l'ho trovato, forse per la bravura degli attori, forse proprio perché i registi non pretendono tanto, ma sono efficaci un po' in tutto. L'ho trovato un film che assolutamente si può vedere, si può insomma condividere magari con gli amici, e col sorriso ammettere qualche propria debolezza, cioè ammettere che forse anche noi ci saremmo cascati nei riflessi condizionati di quell'anziana coppia. Tavolo in fondo a sinistra. Chi è l'autista? Non è l'autista, è lui, è Charles. Tesoro, gliel'hai detto che sono nero? Hanno una faccia. Beh, no, ho glissato. Non dovevi glissare. A tuo padre viene un infarto. Ciao papà, ciao mamma. Vi presento Charles. Non mi avevi detto che erano bianchi? Eccoci ancora qui alla Rosa Purpurea, siamo arrivati quasi in fondo, però volevamo dirvi che c'è anche il cinema italiano in questo weekend in sala. C'è un po' a macchia di leopardo, ma ci sono parecchi film nostrani, Non c'è due senza te, Educazione affettiva, Loriana, ma vogliamo segnalare soprattutto due film. Biagio, un film di Pasquale Scimeca con Marcello Mazzarella, uno degli attori secondo me meno e ingiustamente meno utilizzati del nostro cinema, e dall'altra parte invece una commedia che si intitola Leoni, che ha una predominanza soprattutto territoriale, molto molto veneta. Ora, si tratta di due film molto diversi, Boris, che hanno una distribuzione, come dicevo, a macchia di leopardo, molto territoriale, quella di Leoni un po' sparsa dove capita, comunque nei cinema di qualità, quello di Scimeca, ma sono due film che a vario titolo vale la pena vedere, e sono due film che purtroppo non sono per esempio nelle grandi città. Purtroppo sì, consiglio a chi ha buona volontà di prendere la macchina e fare qualche chilometro, perché sono davvero due film molto diversi ma che meritano. Biagio è l'ennesimo film di un Pasquale Scimeca che ha scelto una linea di rigore e allo stesso tempo però popolare, non tanto nel senso di pop quanto proprio popolare, cioè raccontare la terra, chi ci sta sopra, chi ha i piedi per terra davvero, anche chi dovesse lavorarla. Qui in questo caso però c'è anche il racconto di un'avventura spirituale molto particolare, di un personaggio molto particolare. Non ve lo dico perché non voglio nemmeno darvi la tentazione di andarvelo a cercare, perché è realmente esistito su internet. Vi chiedo di fidarvi e di andarlo a vedere. E devo dire che anzi Scimeca in questo caso trova anche una felicità narrativa, una fluidità narrativa che in altre occasioni magari non aveva, proprio perché inseguiva quel tipo di rigore, nonostante sia un regista che a me piace molto e ne apprezzo molti altri film. Riguardo a Leoni, quello intanto è un caso, perché in Veneto sta andando tutto esaurito, quindi è uno di quei casi alla Siani e via dicendo in cui il cinema regionale ruggisce e si impone. Poi ci sono due attori speciali, come Piera degli Esposti e Neri Marco Re, attori molto strani, ma nel senso buono della parola, non codificati, non stereotipabili, e un racconto di tre generazioni che ci danno una lente di ingrandimento, anche se dal Veneto, quindi anche se particolare, su questo nostro paese. Ed è una commedia anche piuttosto cattiva, ed è anche quella una cosa che noi normalmente non facciamo, e non la facciamo comunque bene come Leoni. Quindi ecco, se andatevelo a cercare, se non è poi così lontano, se parliamo di qualche decina di chilometri, secondo me vale la pena. E allora, speriamo di poter, come dire, aiutare anche queste due pellicole italiane nel loro percorso. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, tanta carne al fuoco per quanto concerne il cinema da vedere in sala, ma anche per quello da vedere in casa abbiamo qualche consiglio, cominciando a risolvere il Bell Game della scorsa settimana. Warren, spero di non disturbare. In quanto padre dello sposo, vorrei dare il benvenuto al nostro ospite. Non potremmo mangiare un po' in pace? Volevo solo far notare che siamo tutti qui riuniti come una famiglia per la prima volta. E allora, si trattava di About Schmidt. A proposito di Schmidt, un film del 2002 con la firma di Alexander Payne, uno dei registi più interessanti degli ultimi 10 anni hollywoodiani, e con un grande Jack Nicholson protagonista. Jack Nicholson, che proprio un mesetto fa in un'intervista ha detto: ho paura di morire in solitudine. A 77 anni Jack Nicholson dal 2010 non è più sullo schermo, ma in questa intervista a Closer ha proprio detto di passare un momento anche di un po' di depressione, dorme fino a tardi, sta molto davanti alla TV, dice: vorrei avere una donna, un ultimo amore che mi accompagni, però so che le donne di me non si fidano e non è tanto adatto alla mia età corteggiarle in pubblico. Insomma, uno sguardo interessante su un attore che è stato anche uno dei più grandi playboy di Hollywood. Aveva ammesso in un'intervista precedente di essere andato a letto con oltre 2000 donne. Giulio San Giorgio, che è in collegamento con noi da Film TV, ci racconta un po' questo About Schmidt. Giulio, che ha un pochino anche dentro qualcosa nella trama che ricorda proprio queste dichiarazioni, queste esternazioni di Jack Nicholson. Sì, assolutamente, è uno dei migliori film di Alexander Payne, che esce in Blu-ray il 12 febbraio prossimo. Alexander Payne, come dicevi tu, è uno dei registi americani più interessanti degli ultimi tempi, un regista che ha un umorismo ficcante ma insieme malinconico molto contemporaneo, un'idea di cinema molto anni 70, e con questi personaggi che attraversano l'America in road movie che sono viaggi di formazione alla scoperta di se stessi. E come dicevi, appunto, qui il protagonista è Jack Nicholson, un Jack Nicholson invecchiato, colpito dalla morte della moglie, che decide di intraprendere un viaggio basandosi appunto sul sogno della moglie, districandosi tra il matrimonio della figlia e un'adozione a distanza, e un paesaggio americano che non è assolutamente quello che credeva. Nel Blu-ray troverete scene tagliate, 9, e una serie di corti girati dalla seconda unità. E allora, questo per quel che concerne About Schmidt. Come ha detto giustamente Giulio, il film deve ancora uscire in Blu-ray, quindi chiediamo ai nostri ascoltatori, che adesso citerò e che lo hanno vinto, di pazientare un attimo per l'invio. E comunque si tratta di due ascoltatori di Napoli, Tonino Tagliuti e Marco Salzano, saranno loro due, tutti e due di Napoli, a ricevere About Schmidt, a proposito di Schmidt, appena disponibile. Giulio, parliamo invece di cinema da vedere in casa, perché c'è una bella coppia pubblicata domenica 8 febbraio, horror, diciamo diversamente horror, potremmo dire, tra La casa delle finestre che ridono di Pupi Avati e Il giorno degli zombie di Giorgio Romero. Sì, partiamo con il film di Avati su Iris al Lune 35, che è veramente uno degli apici del film di paura nostrano, il film che inaugura il gotico padano, che è un piccolo filone dell'horror di casa nostra e che trova ispirazione tra gli orrori rimossi e repressi della provincia emiliana e che sa captare le inquietudini degli ambienti, le leggende macabre che in ogni paese si raccontano, creando veramente momenti di paura vera, veramente un film da perdere. Quasi in contemporanea su Rai Movie alle 2.35 Il giorno degli zombie di Romero, che è il terzo capitolo della saga dei morti viventi, quello più radicalmente politico, che racconta un'apocalisse già avvenuta in un mondo in mano ai morti viventi, appunto, in un'allegoria veramente feroce, sarcasticamente antimilitarista, contaminata dal senso degli anni 80 per l'action e con gli aspetti più splatter possibili di Tom Savini. E allora ricordiamo gli appuntamenti, come diceva Giulio, anche parzialmente sovrapposti: La casa delle finestre che ridono di Pupi Avati su Iris alle 1.35 e Il giorno degli zombie di Giorgio Romero su Rai Movie alle 2.35. Insomma, o fate notte o zappingate, oppure dovete avere due videoregistratori, perché sennò non ve la potete cavare. Ma martedì 10 febbraio invece andiamo a cinema alto, veramente molto molto alto, con La scala chiocciola di Robert Siodmak. Sì, ci manteniamo sempre su dominanti neri in questa storia di un omicidio seriale con una giovane donna che non può gridare in una casa decisamente gotica, in un film che riprende le atmosfere tipiche dell'espressionismo. È un capolavoro veramente di cinema noir ricco di tensione, sottigliezze psicologiche e simbolismi veramente inquietanti. È un film che gode di un impatto visivo prorompente anche grazie al lavoro straordinario di Nicolas Musuraca, che è uno dei più stimati direttori della storia della fotografia. È ancora oggi veramente un gioiello di inquietudine. E allora ricordiamo l'appuntamento, questo è alle 5 del mattino, La scala chiocciola di Robert Siodmak su Rai Movie, appunto alle 5 del mattino di martedì 10 febbraio. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E allora, siamo arrivati quasi in chiusura, io voglio solo ricordare una grande attrice che è venuta a mancare questa settimana. Si tratta di Monica Scattini, 59 anni, stroncata da una lunga malattia, una delle più belle e interessanti facce della commedia italiana degli ultimi 30 anni, a partire dalla famiglia di Ettore Scola, Maniaci sentimentali, a Parenti serpenti, alla sua ultima interpretazione che è stata Una donna per amica. Addio a Monica Scattini, noi vi diamo appuntamento la prossima settimana qui alle 18 con La Rosa Purpurea per raccontarvi tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisti.